Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente del fronte industriale che vede la Francia protagonista per due notizie. Beh, la prima è l'attesa per l'incontro di domani, massimi vertici italiani e francesi, vicenda Fincantieri e Stex. Già i nostri GR24 vi hanno aggiornato sulle varie dichiarazioni. Fiducioso sia Macron che il suo ministro Le Maire, fiduciosi che si possa arrivare a un accordo di ampia portata domani, dopo le tensioni pesanti anche quando la Francia ha cambiato opinione sulla partecipazione di Fincantieri nei cantieri francesi di STX Saint-Nazaire, chiedendo appunto che la Francia tenesse a questo punto, si arrivasse a un accordo 50-50 e non almeno 51-49 come precedentemente detto e concordato con il presidente Hollande. Da lì il tentativo di arrivare a un accordo più ampio che includa una divisione difesa, civile e difesa, con il rischio proprio all'Italia, come abbiamo evidenziato, che questo non vada a danneggiare un'altra partecipata importante, e mi riferisco a Finmeccanica, cioè non vada a fare concorrenza a Finmeccanica. Ne parleremo perché appunto le dichiarazioni sia del ministro Padoan che del ministro Calenda sono abbastanza ottimiste su domani. Gentiloni ha detto in un'intervista alle Figaro: ci sono le premesse per un accordo, l'ambizione è costruire un grande polo civile e militare. Padoan ha detto: siamo fiduciosi che si possa arrivare a un accordo. Questo nel giorno in cui dalla Francia arriva un'altra notizia, ossia che Siemens ed Alstom sono pronte a chiudere l'accordo per una fusione delle loro divisioni ferroviarie. Addirittura i consigli di sorveglianza delle due società potrebbero incontrarsi già oggi per la firma. Questo vorrebbe dire la nascita di un gigante nel settore dei trasporti in Europa, il secondo a livello mondiale, con un volume di ricavi di 16 miliardi di euro. Siemens controllerebbe poco più del 50% della nuova creatura, che avrebbe la sede in Francia e sarebbe quotata a Parigi e avrebbe un amministratore delegato francese. Il governo francese, che controlla il 20% di Alstom, appoggia la fusione e il governo francese ha anche un'opzione per acquisire un altro 20% di Alstom, che è in mano a Bouygues, che è un colosso francese nelle costruzioni e nelle telecomunicazioni. I due gruppi valgono più o meno la stessa cosa come attività ferroviarie: quasi 8 miliardi Siemens, quasi 7 miliardi e mezzo Alstom, e questo dovrebbe permettere di fronteggiare i colossi cinesi. L'accordo tra le due società però sconvolgerà i piani di Bombardier, che da mesi stava lavorando per portare avanti trattative con i tedeschi per la creazione di due joint venture ferroviarie, e non è felice neanche il numero uno dell'FS italiano, Renato Mazzoncini, che ha detto: sarei più contento se rimanessero separati. La riduzione del numero di competitor, e questi sono nostri fornitori, è sempre negativa, non è una buona notizia così buona. Alstom e Siemens producono materiale ferroviario, per capirci. Un accordo franco-tedesco, alcuni fanno rilevare com'è che con i tedeschi loro riescono ad avere il 50 più 1 della nuova creatura. È vero che concedono il fatto che la nuova sede resterà in Francia, il ministro legato resti francese. Queste due vicende, che sono su due settori diversi, ma hanno come comune denominatore un consolidamento europeo di attività industriali. Poi parleremo invece di anche del petrolio. Il petrolio si sta muovendo in maniera abbastanza netta, perché il Brent ormai è ai massimi da due anni, dal luglio 2015, intorno ai $59 al barile. Questo per quello che riguarda l'andamento del Brent. In rialzo anche il WTI. si sta muovendo sia, come ricordavamo ieri, sull'ipotesi di un accordo tra Russia e OPEC, ma anche sul referendum del Kurdistan. Ne avremo un approfondimento con l'inviato del Sole 24 Ore, che appunto ha seguito il referendum in Kurdistan, perché con una posizione molto dura, perché il Parlamento iracheno ha approvato oggi un insieme di misure in risposta alla decisione del Kurdistan di svolgere il referendum. Il dato sarà un plebiscito, stando alle prime proiezioni il 93% è a favore nel Kurdistan iracheno, l'affluenza sfiora l'80%, domani vi saranno i risultati finali. Anche l'esercito turco è schierato al confine con il nord Iraq, pronto a intraprendere i passi necessari a seguito del referendum consultivo sull'indipendenza del Kurdistan iracheno. Sappiamo che la parte curda in Turchia è oggetto da sempre di scontri fortissimi con i militari, con accuse reciproche e quant'altro. Perché c'entra il Kurdistan con il petrolio? Perché oltre ai tagli effettuati dall'OPEC, circa 520.000 barili al giorno, l'export di greggio dalle zone curde, che sono 550.000 barili al giorno, quindi equivalente al taglio fatto dall'OPEC, è costantemente aumentato negli ultimi 10 anni. Oltre a questo, il greggio ha guadagnato un 30%, anche perché l'economia va meglio del previsto, e quindi per la prima volta da 10 anni cresce un po' anche la domanda di greggio, cosa che invece da quando è scoppiata la crisi non si era mai verificata. Ripeto, anche di questo parleremo. E poi una vicenda che riguarda molto l'Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri, ma in realtà era un tavolo allargato, ha varato gli stanziamenti per Matera, capitale della cultura europea, nel 2019. Ha dichiarato lo stesso ministro Claudio De Vincenti, interventi diretti per 106 milioni su Matera, Basilicata altri 250, più il bando per le periferie 13 milioni, sono nel complesso 400 milioni a disposizione. Contento il sindaco, realizziamo un sogno, giornata epica. Anche il premier Gentiloni ha detto Matera 2019 è il simbolo per il Mezzogiorno, ha vinto con le altre candidate europee. Adesso l'importante sarà, e dovremo avere ospite il ministro De Vincenti, capire come verranno utilizzati questi soldi, chi farà il coordinamento e il controllo dell'utilizzo di questi soldi. Infine, l'ultimo tema, e poi passiamo alla notizia in breve, i marchi. Come ogni anno ci occuperemo della classifica sui marchi che hanno maggior valore economico intrinseco. Non si tratta quindi del fatturato di questi gruppi. La realizza come sempre Interbrand. Ferrari è entrata nella top 100 dei marchi mondiali assieme a Gucci e Prada. Per il quinto anno di fila però sono Apple, Google che hanno il primo e il secondo posto, seguono Microsoft. Il valore del marchio, cioè se uno volesse comprarsi solo il marchio, è stimato per quello che riguarda Apple in 184 miliardi di dollari, il marchio di Google è stimato in 141 miliardi di dollari. E devo dire che le nuove entrate, i nuovi ingressi, le new entry sono tre: Ferrari, Netflix e Salesforce. Tra l'altro, se uno va a vedere la classifica, abbiamo Apple, Google, Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz e IBM. Un piccolo approfondimento anche su questo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E poi chiaramente anche la diretta del programma su Facebook. La borsa poco mossa a Milano, più 0,1, negativa, poco mossa, invariata anche Parigi, invariata anche Francoforte, invariata anche Londra, invariata anche l'America. Insomma, mi sembra che il tono dei mercati sia chiaro quanto ai indici. Chi si continua a muovere o restare più debole, anche se a un livello non basso, è l'euro a quota 1,1770 dopo le elezioni tedesche. Tra i titoli Ferragamo, Salvatore Ferragamo più 3,11, B per Banca più 2,80, Banco BPM più 2, IUX Santa Porte più 1,80, l'1,5 guadagna Campari e Leonardo, l'1,1 Mediolanum e A2A. Il fronte opposto è, vede sostanzialmente Moncler calare dell'1,40 come Luxottica, Ferrari dello 0,80 come Generali, Mediaset dello 0,70 come Unicredit. Allora andiamo su altre notizie. Oggi è uscito un dato interessante in occasione del Cyber Tech Europe 2017. I cyber attacchi stanno costando alle imprese a livello mondiale una media di 11,7 milioni di dollari, 6 milioni e 700 mila euro in media per le imprese italiane. I danni sono più onerosi per le aziende statunitensi con 21,2 milioni di dollari. Il costo globale della criminalità informatica viene stimato in 500 miliardi di dollari, poco meno del narcotraffico. Guardate che può sembrare una cifra enorme, ma noi abbiamo ricevuto molti casi di imprenditori, manager, amministratori delegati che hanno avuto hackerato il loro sistema informatico e poi ti arriva una mail che dice: se vuoi che te lo sblocchiamo, paga in Bitcoin a questo sito non tracciabile. Quindi è un'attività criminale che in questi casi è assolutamente equiparabile, se non peggio, al ricatto, all'estorsione, al racket. Non è che deve pensare solo al racket, diciamo, del pizzo che viene pagato. Quando tu blocchi un sistema informatico e chiedi in cambio, cosa che è successa molte volte, il pagamento attraverso una valuta non tracciabile come sono i Bitcoin. E di questo qualcuno mi scrive: ma quanto mi dispiace, ho capito, perché lei non lavora in quell'azienda. Insomma, non si può essere contenti se un hacker guadagna e va a finanziare la criminalità, perché poi il giro è un giro assurdo che passa per l'Asia, per la Russia e quant'altro. Si chiama ricatto o estorsione a casa mia. Andiamo continuiamo sull'Europa. Il discorso di Macron alla Sorbona: sì, ha detto rifondiamo l'Unione Europea, non cediamo all'odio, andiamo verso un esercito comune europeo, ma è stato contestato dagli studenti all'arrivo alla Sorbona per il suo discorso sulla nuova Europa. Da Madrid invece non si placano le tensioni, anzi aumentano. Il 1 ottobre non ci sarà un referendum perché è illegale. Questa è la linea confermata oggi dall'ambasciatore spagnolo a Roma in un forum con l'ANSA. Visto che parliamo di Italia, a questo punto il dato di oggi sul commercio con l'estero segnala un ottimo incremento, perché per quello che riguarda la base annua, il dato del commercio con l'estero è ad agosto ha segnato un più 8% tra i paesi sull'anno prima, bene anche le import più 6%. Tra i paesi di sbocco l'export verso la Cina ha fatto un più 26%, la Russia più 20%. I dati sono quelli che riguardano non il commercio interno all'Unione Europea, extra UE si chiama. Mercosur più 17%, Turchia più 15%, Svizzera più 11,5%. Invece in flessione le vendite verso i paesi OPEC meno 6%, ASEAN meno 1,2% e Stati Uniti meno 1,1%. Restiamo sull'Italia perché oggi è stato inaugurato a Milano il Milan FinTech District. Era presente anche il ministro Padoan, che l'ha definita una best practice, quindi un caso di scuola da seguire. Che cos'è il Milan FinTech District? È sostanzialmente un'area urbana, un'area fisica dedicata all'operatività delle aziende più avanzate nel settore finanziario. Va a riunire le start-up, gli imprenditori, le istituzioni finanziarie, gli investitori e l'università, con l'obiettivo, insomma, di favorire la crescita delle aziende in questo settore finanziario e lo sviluppo dell'industria finanziaria, ha sede nel nuovo quartiere, diciamo, di Porta Nuova. Praticamente i principali operatori fintech in Italia potranno lavorare assieme e sviluppare collaborazioni industriali, sinergie commerciali, attrarre anche nuovi investimenti. È un modello già seguito dal Level 39 di Londra o la Station F a Parigi, perché unire idee, far circolare le idee, progetti, cooperazione, sinergia, si è dimostrata un'idea vincente in questi casi, su queste tematiche a maggior sviluppo e dove le start-up, diciamo, hanno un ruolo importante. Per quello che riguarda invece la manovra finanziaria, quindi restiamo sull'aggiornamento della manovra, oggi a margine del G7 Industria a Torino, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha ribadito che il costo del lavoro per i giovani sarà centrale nella legge di bilancio e lo ha fatto al microfono della nostra Anna Marino. Ma in questa fase si tutelano in due modi. Primo, per chi ha lavoro e può essere spiazzato dal cambiamento tecnologico, la formazione, cioè formare i lavoratori che sappiamo hanno categorie di professione a rischio con l'arrivo dell'automazione, in maniera che facciano lavori che sono ovviamente più remunerativi perché sono più alti nella catena del valore, ed è per questo che quest'anno inseriremo un credito d'imposta sulla formazione. In secondo luogo, come si tutela il lavoro in entrata? In primo luogo per i giovani, facendolo costare meno, cioè quindi la capacità di aumentare l'intensità di lavoro per i giovani. E c'è un altro tema, che è un tema grande come una casa, su cui riflettiamo molto meno, ma che è nei dati, che è la riduzione dei salari d'ingresso dei giovani, su cui va fatto veramente un ragionamento profondo. Io credo che questo sarà al centro dell'operazione che faremo con la legge di bilancio: investimenti, innovazione, ma soprattutto competenza e formazione. Ancora una notizia in realtà molto coperta dai nostri GR, anzi due notizie dai nostri GR 24. Per quello che riguarda la vicenda Tim, Gentiloni, il premier, nell'intervista che citavo prima alle Figaro, ha detto: c'è un comitato tecnico al lavoro per sapere se Vivendi avesse avuto l'obbligo di informare il nostro governo che stava prendendo il controllo di Tim e se questa operazione fosse conforme alla legge italiana sui Golden Powers. La riunione è stata rinviata a giovedì, la riunione del comitato governativo sulla verifica per l'attivazione della Golden Powers su Tim. Devo dire che su questo ieri, sempre dal G7 di Torino, il ministro Calenda non aveva fatto mistero della sua opinione, dicendo, insomma, lui dice domani, perché il rinvio è arrivato oggi a metà giornata, ma insomma è per esercitare completamente la Golden Power. Sentiamo questo passaggio. Il digitale è fondamentale per il welfare. Pensate alla sostenibilità di lungo periodo di tutto il sistema sanitario, con una popolazione matura che invecchia, quanto dipenderà dalla capacità di erogare cure sempre più avanzate, ma sempre più efficaci e quindi meno costose. E per esempio attraverso l'analisi dei big data. E voi sapete che su questo noi ci stiamo muovendo, e sarà uno dei temi anche che verranno studiati all'interno di Human Technopole. Quindi quello che va spiegato molto bene è che l'innovazione tecnologica che va governata, ed è il messaggio che esce da questo G7 per la prima volta, è un'innovazione che ha dei rischi sul lavoro, ha dei benefici anche sul lavoro, perché ovviamente continua a levare la fatica fisica, cioè sempre meno lavoro, diciamo, manuale, sempre più lavoro intellettuale. In questo G7 sono rimbalzati anche temi di economia internazionale proprio riguardanti all'industria. C'è anche lì una forte possibilità di accordo, non solo su STX ma anche su la Golden Power. Il Golden Power è un comitato tecnico a cui ho segnalato l'esigenza di verificare le condizioni per l'esercizio della Golden Power, o l'esigenza comunque di una notifica che prenderà la sua decisione. Su STX è invece un accordo industriale su cui stiamo discutendo, e noi siamo molto confidenti che raggiungeremo una buona soluzione per entrambi. Adesso arriviamo ai marchi di valore, però faccio notare che c'è un'iniziativa un po' singolare, nulla in contrario per carità, ma che sia singolare come dato oggettivo mi sembra abbastanza palese, di quattro storici top manager di Tim. Sono Francesco Chirichigno, amministratore delegato dal 94 al 97, Vito Gamberale, amministratore delegato, si chiamava ancora SIP e poi direttore generale di Telecom e AD di Tim tra il 91 e il 98, Umberto De Giulio, che ha ricoperto la stessa carica nel 98, e poi Girolamo di Genova, e che è rimasto fino al 98 con l'ultima carica come vice direttore generale. Chiedono che lo Stato rientri in team e suggeriscono l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti come miglior suggello al recupero di un ruolo e di un'attività, di un'attiva collaborazione per accelerare lo sviluppo della società in coerenza con la politica industriale del paese. Allora, questa è la loro iniziativa, era statale. Possiamo dire che è palese anche, insomma, dal tentativo di governo, del governo di attivare la Golden, che secondo me a suo tempo, poi il Golden Power, la scalata di Vivendi in Telecom fu sottovalutata, possiamo dire almeno questo, cioè, poi uno può decidere che liberamente, poi sappiamo tutti che l'errore della privatizzazione Telecom fu il nocciolino debole, il nocciolino inesistente. Andiamo indietro almeno ad D'Alema, presidente del Consiglio, ai capitani coraggiosi, insomma quella vicenda, e anche prima, quando si decise di fare una public company con un nocciolo duro che si rivelò un nocciolino più che un nocciolo. Ma detto questo, il fatto che un finanziere come Bolloré, francese, possa arrivare ad acquisire il controllo di Telecom senza che la politica se ne accorga in quegli anni è abbastanza singolare. Poi altre volte abbiamo ripercorso questa vicenda, quindi insomma non so in quanti paesi sarebbe potuto accadere una cosa del genere, non perché non possa, ma lo fai, diciamo, in certi modi, e non lo fai semplicemente come scaleresti con una qualunque altra società, visto che le telecomunicazioni, assieme all'energia e al settore difesa, dovrebbero essere ancora uno dei settori strategici per la sicurezza di un paese. Vedi la vicenda Sparkle. Vabbè, occupiamoci di Marchi, però non ce la faccio a non leggere una cosa. Non voglio anticipare la classifica di venerdì, da pochi mi diede classifica, ma se leggete alcune delle intercettazioni che hanno portato a indagare vari personaggi, tra cui appunto l'ex ministro Fantozzi, Pietro Bori, Andrea Fedele, Leonardo Perrone, Eugenio Della Valle, professori esterni, e i 22 professori sospesi dall'attività universitaria, l'interdizione è stata decisa dal giudice, per il giudice Angelo Antonio Pezzuti, che il GIP di Firenze che sta indagando, ne ha arrestati 7 e nell'ordinanza ha stabilito 22 interdizioni per altrettanti indagati. Ci sono delle frasi che vi lascio poi alla classifica del venerdì, ma quando vedi nel testo che il candidato Gezzi Filip La Roma chiede spiegazioni della sua esclusione e gli viene risposto in una registrazione poi telefonica fatta dal ricercatore che ha denunciato la spartizione di cattedre universitarie, gli viene risposto dal tributarista professor Pasquale Russo: non è che si dice è bravo o non è bravo, no, si fa così, questo è mio, questo è tuo e questo è tuo e questo è coso, questo deve andare avanti, per cui... Allora, noi delle baronie abbiamo parlato molte volte in università, ma diciamo una descrizione così plastica di come funzioni la selezione in quel caso, e non si dice è bravo o non è bravo, si dice è mio e tuo, sembra di ripiombare indietro, non so, di 60, 70 anni, 50 anni, forse c'eravamo illusi noi. Poi non venitemi a parlare delle volte della formazione e del perché si debba ancora mantenere in questo paese il valore legale del titolo di studio, perché finché qualunque laurea è uguale per i concorsi pubblici, che tu l'abbia preso in un posto o in un altro, la selezione e la concorrenza interna non si farà mai, abbiate pazienza. Poi avessimo delle università in cui i professori non sono baroni, non usano... dai, non tutte, ci sono università che raccontiamo che si classificano in maniera eccellente nelle varie classifiche internazionali, ci mancherebbe, però quello che dice il come cavolo si chiama tributarista Pasquale Russo è esattamente quello che ci viene raccontato in molti altri casi, quindi non facciamo le verginelle, questo è mio, questo è tuo, questo devi far passare perché è mio, questo non è di nessuno, è nenne, e il fatto che lui ammette che il re è nudo, non si dice è bravo o non è bravo, e andiamo avanti così. va bene, si fa per dire. Allora, Manfredi Ricca, responsabile strategia EMEA America Latina di Interbrand, buonasera. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, le chiedo un minuto di pazienza, perché vorrei fare il metro, la pubblicità, poi ci racconta la classifica di quest'anno. State ascoltando un programma offerto da Azienda Green Premium di Dolomiti Energia. Dalla nostra acqua, l'energia per la tua azienda. Focus Economia. Soy el fuego que... Allora, Manfredi Ricca, ci dia la classifica di quest'anno. Ho visto entrare nella classifica Interbrand Ferrari, oltre a Gucci e Prada, tra i primi 100 marchi al mondo, ma la classifica è ancora dominata da Apple e Google. Apple praticamente, se ho ben visto, vale 184 miliardi il valore del marchio, e Google 141. E quindi le novità, poi gli altri li ho già raccontati in apertura: Apple, Google, Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz e IBM. I primi 10, le novità e diciamo le tendenze che avete registrato, visto che ogni anno a livello mondiale fate la classifica del valore del marchio. Ah, sì, direi che la principale novità è probabilmente data dal podio, nel senso che per la prima volta non abbiamo Coca-Cola fra i primi tre brand, ma nelle prime tre posizioni si concentrano tre brand che hanno di fatto creato quello che oggi si chiama un ecosistema, cioè sono stati in grado di integrare prodotti, servizi ed esperienze. Sono Apple, Google e Microsoft, ognuno dei quali lo fa con un taglio e con dei benefici diversi. Quindi Apple con la possibilità di fare tutto in modo molto fluido e semplice, Google con l'aggregazione di informazioni rilevanti, Microsoft con la possibilità di connettere la propria vita professionale e quella personale, di nuovo con una scia di servizi e soluzioni. E questo credo racconta già un po' dove effettivamente si sta concentrando il valore economico, cioè non solo in chi produce, ma chi è in grado di produrre, integrare e mettere a sistema. Ecco, l'ho chiamata anche perché nel ringraziare, uno penserà che sono impazzito oggi, ma non più di tanto, nel ringraziare il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Buonasera Ministro. Buonasera. Per averci appena raggiunto il collegamento, perché con lei parleremo di Matera 2019, bene, visto che avete stanziato 400 milioni divisi in tre, diciamo, tranche, 106 per Matera, 284 per la Basilicata, più il bando periferie 13 milioni, Matera nel 2019 la capitale europea della cultura, e voi stessi avete detto è una scommessa, è un simbolo per il sud. Ma Federica, le chiedo una consulenza gratuita al Ministero, immagino sarà contento, perché è gratuita. perché è gratuita. Quando si ragiona a livello di soggetti non fisici, come può essere un'impresa, un'azienda, ma voi lavorate sui marchi, e quando noi puntiamo su un marchio come Matera 2019, come possiamo aver fatto in altre occasioni, per rivitalizzare non solo Matera, che è una città bellissima e straordinaria, patrimonio UNESCO, ma per dare l'impressione, come fu l'Expo per Milano, se mi passa l'esempio, il parallelo forse un po' improprio, qual è la cosa più importante? Ci faccio una consulenza in diretta a cui deve guardare il governo, perché il marchio stesso, oltre che gli eventi e le iniziative, abbiano successo. Fondamentalmente legare questo marchio a dei benefici nei confronti di chi, di coloro con cui si sta parlando. Cioè molto spesso quello che viene chiamato un brand territoriale o comunque un brand di iniziativa è molto legato a esigenze tattiche, no? Quindi questo evento, oppure semplicemente venite in questo luogo, investite in questo luogo. Credo che si tratti di differenziare meglio e di fare sostanzialmente una promessa di quello che questo territorio, questa iniziativa poi lascerà nel tempo. Quindi se si sta parlando con gli investitori, tangibilmente quali saranno i benefici, quali saranno le politiche, quali saranno i supporti che verranno dati, oppure se si sta parlando a dei visitatori, che tipo di esperienze sono uniche e unicamente legate a quel posto. Cioè molto spesso si presume che semplicemente citando un evento, citando un luogo, improvvisamente creando notorietà, creando un po' di rumore, le cose cambino. In realtà tutto si concentra nel perché qualcuno dovrebbe venirci, perché qualcuno dovrebbe investirci, e deve essere un messaggio univoco semplice e supportato da dei fatti. E quindi non pensare che il semplice marchio, la vittoria e l'avere finanziato, diciamo, l'iniziativa sia motivo di attrazione in sé. Se ho ben capito, però da questo punto di vista, Manfrederica, è anche dare un respiro un po' più ampio, cioè non limitarsi all'iniziativa in sé. Cioè la no, città... assolutamente. Assolutamente, si tratta di essere in grado di andare oltre quell'iniziativa e raccontare soprattutto in che contesto si lega quell'iniziativa, quindi perché a Matera, che cosa si sta cercando di costruire e cosa accadrà non soltanto domani ma poi dopodomani, settimana prossima e negli anni a venire, e quindi perché Matera è il posto ideale, è l'unico posto in cui si sarebbe potuto effettivamente consumare questo evento e che cosa di più grande, di più ampio respiro, come diceva lei, sottende questo evento a Matera. Allora, grazie intanto Manfrederica. Ministro, ho iniziato in maniera un po' spuria, però mi sembrava importante, visto che stiamo introducendo il tema dei finanziamenti che avete sbloccato. Adesso vengo alla parte più, diciamo, di contenuto, di sostanza, anche se, a mio avviso, quanto detto Manfrederica dovrebbe restare. Devo dire che Milano, su questo punto di vista, l'Expo non l'ha utilizzato solo per dire venite che c'è il più importante appuntamento sul cibo, ma l'ha utilizzato per rilanciare Milano stessa, o rilanciarla prima e anche dopo. Certamente, altrettanto dobbiamo fare con Matera. L'idea è che, beh, prima di tutto che Matera è una città, come diceva lei, bellissima, patrimonio dell'UNESCO, ricordo che è il primo sito nel Mezzogiorno d'Italia dichiarato patrimonio dall'UNESCO ormai all'inizio degli anni 90, e, perché il rilievo di Matera è straordinario sul piano culturale, artistico, e quindi questo fa di Matera comunque un polo di attrazione, tant'è che l'aumento significativo di presenze turistiche, quindi di attività economiche connesse, si sta già verificando da quando è stata indicata come capitale europea della cultura, cioè dal 2014, è un continuo aumento di flussi turistici su Matera. Naturalmente questo poi va consolidato sia in termini di strutture di accoglienza turistica, e questo già in parte si sta facendo, sia in termini di assetto urbanistico, e questo è il punto chiave del contratto istituzionale di sviluppo, sia in termini di collegamenti infrastrutturali su cui abbiamo messo appunto quei 400 milioni, una parte consistente di quei 400 milioni di cui lei parlava prima, che sono all'interno del patto per la Basilicata e sono finalizzati sia a infrastrutture specifiche per Matera, sia a infrastrutture di collegamento di Matera con Campania, Puglia e Calabria, in modo da dare a Matera una centralità che promette per il futuro, che poi resta sul territorio per il futuro. E teniamo anche conto che Matera è un'area di attività economiche importanti, ne cito una sola come settore molto importante, ma non è l'unico, che è quello dell'agroalimentare. Allora, dopo il traffico, le chiederò appunto come intendete utilizzare questi 400 milioni, che controllo vi sarà, perché vedo già gli ascoltatori che al 349-238-6666 mi chiedono, bene, altro debito? Allora, gli investimenti, contrariamente a quello che pensa Bruxelles, non sono necessariamente deficit, sono deficit quando sono improduttivi, mettiamolo così, perché se un investimento porta un aumento del giro d'affari in quell'area, è un investimento e non è una spesa. Poi so che Bruxelles non distingue tra spese e investimenti, ma questo è un altro fronte. Come intendete utilizzarli? Chi farà il controllo su questo? E mi interessa anche molto il collegamento logistico, perché personalmente adoro Matera, l'ho visitata due volte, devo dire che è facile arrivarci da Bari, perché non è distante, difficilissimo arrivarci, non è impossibile arrivarci in treno, ma vorrei capire, insomma, La connessione, la strada era ancora in costruzione l'ultima volta che l'ho vista, come andate a controllare anche tutta l'attività che viene svolta dal suo collega ai trasporti dopo il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora Ministro De Vincenti, chi controllerà l'utilizzo di questi soldi e come garantirete anche che la parte logistica del collegamento a Matera, che non è una cosa da poco, sia realizzata in tempo utile. Dunque, prima di tutto vorrei chiarire che non sono debito, sono fondi interamente coperti, già stanziati e già coperti. In parte sono fondi nazionali, sono il Fondo Sviluppo e Coesione cosiddetto, e in parte sono fondi strutturali europei, perché questo è un investimento di grande rilievo anche dal punto di vista europeo. Quindi nessun debito, investimenti sul territorio fatti in modo serio, con coperture certe. Dopodiché, come essere certi che verranno ben utilizzati? Prima di tutto gli obiettivi sono quelli che cui lei accennava, a parte il completamento della messa a posto della strada di collegamento tra Matera e Bari. Poi abbiamo il potenziamento della linea ferroviaria Altamura-Matera, che è decisivo per avere i collegamenti ferroviari verso l'Adriatico. Poi c'è la ferrovia Ferrandina-Matera, anche questo è molto importante. Ferrandina è un centro logistico molto importante per tutto l'agroalimentare del Metaponto. Poi il collegamento stradale che va dalla Calabria fino alla Murgia e che passa per Matera, e la riqualificazione della statale Basentana, che è pure molto importante, che collega Matera con la costa del Mar Ionio. Quindi interventi sul piano infrastrutturale di grande rilievo. Poi diciamo, cosa garantirà un buon uso di questi fondi? Beh, lei sa che ormai noi abbiamo metodicamente i protocolli di legalità che stiamo applicando dovunque interveniamo con contratti istituzionali di sviluppo, per esempio a Taranto, adesso anche lo faremo per Matera, e abbiamo quindi una struttura di governance che esalta trasparenza anche di informazione, di comunicazione al pubblico e rispetto della legalità. Io credo che queste sia la strada giusta. La struttura di governance che abbiamo pensato è una struttura di grande responsabilizzazione di tutte le amministrazioni. Ministro, un'ultima domanda che non c'entra con Matera, adesso vedremo. L'importante è che i soldi, le ha fatto bene ricordare che ci sono anche i soldi di coesione di cui abbiamo diritto, il problema è che delle volte non riusciamo a utilizzarli, europei, e i soldi sono interamente coperti. Mi sembra, vedo anche gli ascoltatori sono molto d'accordo sul fatto che in questo momento la prima cosa sia il collegamento logistico, quindi ferroviario e non solo automobilistico, anche perché aggiungo, atterrare a Bari e dover noleggiare un'auto o comunque non è esattamente economico, altra cosa è poter prendere un treno, e dipende poi da dove arrivi. No, le chiedo una cosa, visto che anche oggi dalla Spagna arrivano notizie abbastanza attese sulla Catalogna. Lei, ministro della coesione territoriale, non voglio fare paralleli e paragoni assolutamente impropri e impliciti, ma il prossimo mese si va a votare in un referendum in Lombardia e in Veneto. Lei cosa si auspica? Che vinca l'astensione? No, ma guardi, non c'è nessun possibile collegamento con il referendum catalano. Qui noi abbiamo una situazione molto, molto semplice, cioè in realtà i referendum in Lombardia e Veneto sfondano una porta aperta, perché per attivare, come chiedono i quesiti referendari, la procedura dell'articolo 116 della Costituzione in materia di ulteriori forme di autonomia, basta, lo dice la Costituzione già, una richiesta della Regione al Governo sentiti gli enti locali, insomma basta una lettera della Regione al Governo, e posso assicurare che noi siamo completamente aperti al confronto con le regioni su un tema come questo, e comunque vada il referendum noi siamo pronti al confronto con le regioni sul tema delle ulteriori forme di autonomia. No, perché loro dicono che porte aperte, c'è uno studio della CGA di Mestre che sostiene come quanto a quello che versano le regioni, quello che ricevono, Veneto e Lombardia sono messe peggio anche della Catalogna. E soprattutto loro chiedono un modello come quello dell'Alto Adige. Mi scrive qualcuno dell'Alto Adige, guardate che io personalmente non penso che le regioni a statuto autonomo possano anche non servire, ma detto questo, che gli altoatesini e i trentini siano molto bravi nel gestire i soldi che restano sul territorio non c'è dubbio, ma hanno anche la possibilità di avere una quota enorme di tasse che pagano che restano sul territorio. Allora, su questo lei dice che forse quasi quasi non c'era bisogno di un referendum? C'è un accordo accordo con il Trentino e con l'Alto Adige di contribuzione delle due province autonome al bilancio pubblico dello Stato italiano, in modo da garantire una solidarietà interregionale. Quindi il problema onestamente non si pone. Ma io vorrei segnalare comunque che la tassazione non è regolamentata per territorio, ma è regolamentata per, come si dice, capacità contributiva. Quindi, per capirci, una persona benestante a Milano paga esattamente la stessa IRPEF che certo. paga una persona benestante a Reggio Calabria. E un lavoratore che ha bisogno degli assegni familiari a Milano gode degli stessi assegni familiari di cui gode un lavoratore a Reggio Calabria. Quindi il problema è che i cittadini italiani, in quanto cittadini italiani, sono trattati esattamente allo stesso modo dalla Lombardia fino alla Calabria o alla Sicilia. Non c'è nessuna differenza, quindi la polemica che fa la CGIA di Mestre è mal riposta. È proprio della cittadinanza essere sottoposti allo stesso regime fiscale, allo stesso regime di trasferimenti, per esempio al sostegno della famiglia, agli assegni familiari di cui parlavo prima, su tutto il territorio nazionale. Non c'è nessun privilegio e nessuno svantaggio. Sì, poi quello che è diverso, ma questo lo raccontiamo molte volte, sono i servizi, soprattutto al sud, che a parità di pressione fiscale sono più scadenti, ma lì te la devi prendere anche, lo dico, con regioni e enti locali, visto che abbiamo una classifica ogni venerdì sugli sprechi dell'amministrazione pubblica. Ministro, grazie. Noi monitoreremo da vicino nei prossimi mesi tutto lo stato di avanzamento dei lavori su Matera. Bene però che Matera abbia avuto i soldi, lo dico, e non potete accusarmi di essere uno che ama lo spreco dei soldi pubblici. Grazie al ministro per la coesione territoriale del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Azienda Green Premium di Dolomiti Energia. Dalla nostra acqua, l'energia per la tua azienda. Focus Economia. Le 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sulle parole del ministro De Vincenti. Molti apprezzano Matera, ma altri stanno scrivendo sul referendum lombardo e veneto. Avremo modo di parlarne anche con i governatori. Chiarisco, pur non essendo chiaramente l'interprete né l'esegeta delle parole del ministro, il ragionamento, cioè ha detto che la tassazione in questo paese è su base, la stragrande maggioranza, poi sappiamo che c'è la tassazione di carattere locale, l'addizionale IRPEF e quant'altro, è progressiva sulla base del reddito, non dell'appartenenza regionale. Quindi la tassazione, poniamo al 43%, vale per tutti quelli che hanno un reddito tale, quindi aliquota massima, in tutto il paese. Quindi da questo punto di vista, così come i sussidi e gli aiuti valgono in tutto il paese, il ragionamento valgono in maniera uniforme in tutto il paese, quindi assegni e quant'altro. Questo è l'approccio, diciamo, del ministro. L'approccio dei governatori di Lombardia e Veneto, lo sapete, dicono no, noi guardiamo a tutto quello che è il trasferimento di risorse che producono tramite la tassazione che viene effettuato dalla Lombardia e dal Veneto verso il governo nazionale. Vediamo quello che poi ci arriva, diciamo, a livello di fondi nazionali, e la differenza è enorme. Siamo dei contribuenti netti, ma questo lo sapevamo. Vorremmo che la quota che resta, poi, fermo restando che la tassazione deve essere uguale in tutto, come aliquote, come carico, come anche detrazione, deve essere uguale in tutto il territorio nazionale, noi vorremmo che una quota più alta restasse nella regione, e usano il modello, diciamo, delle regioni a statuto autonomo, in primis il modello Alto Tesino del Trentino. Non è un caso che lo usino, perché da sempre abbiamo affrontato il tema della concorrenza tra virgolette interna che le regioni a statuto autonomo svolgono. Cioè, se tu sei un'impresa o anche un cittadino che abita vicino a queste regioni, sia in Lombardia sia in Veneto hai un netto svantaggio rispetto ai finanziamenti, agevolazioni e anche sia come impresa sia come, come cittadino e quindi persona fisica. La borsa, ripeto, poco, pochissimo mossi gli indici oggi, più 0,20% Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,20, Dow Jones invariato anch'esso, in recupero alcuni titoli, Biper Banca più 3%, Salvatore Ferragamo più 3, BPM più 2,40, Iux Net-a-Porter più 2,14, Leonardo più 1,5 come Mediolanum e Campari, Finecobanca più 1,30. Fronte opposto invece Luxottica meno 1,5, Moncler meno 1,30, Mediaset meno 0,90 come Ferrari, lo 0,80 lo perdono le generali. Per quello che riguarda poi il rapporto euro su dollaro, che forse assieme al petrolio è quello che fa più notizia, siamo a 1,1767. Ancora per quello che riguarda i mercati, come sempre Radio Corriere sulle 24 ore, Leonora Micheli, buonasera. Buonasera. Parliamo di Ferragamo perché oggi c'è anche un report su questo. I petroliferi sì, bene, ma insomma Eni più 0,30, Snam più 1%. Vorrei capire invece come si sta muovendo il mercato su Telecom e su Mediaset. Sì, cioè per quanto, quindi Ferragamo, Mediaset e Telecom. Yes. Ferragamo ha fatto praticamente il 3% per due motivi. Il primo è un report di Deutsche Bank che ha detto che dopo che Gucci, che ricordiamo aveva rallentato sia nell'andamento del fatturato che anche dei margini, poi ha fatto una piccola rivoluzione, ha chiamato un nuovo stilista, nuovi manager, ha ripreso ad andare molto bene, dopo Gucci Ferragamo potrebbe essere la nuova rivelazione nel settore della moda, perché tra l'altro ricordiamo che l'anno scorso è entrato un nuovo amministratore delegato, Poletto, e più sono entrati nuovi stilisti e si sono visti già, diciamo, i primi risultati in un grande evento che si è tenuto sabato scorso e che ha avuto un grande riscontro. Non era solo un evento per presentare le collezioni femminili per la prossima primavera estate, ma anche per il lancio del profumo, ma soprattutto un modo perché un modo con cui l'azienda ripresentava il nuovo volto alla comunità anche finanziaria e alla comunità ovviamente della moda. Per quanto riguarda Mediaset invece è stata per tutta la seduta debole, meno 0,89%, nell'attesa dei conti che poi sono diffusi a borsa chiusa. E Telecom invece ha avuto un andamento un po' nervoso, alla fine ha chiuso in rialzo dello 0,19%, allineata dunque al listino. In questo caso pesa ovviamente la spada di Damocle di una serie di incertezze sulla società, che peraltro deve anche nominare l'amministratore delegato, ma diciamo il dubbio più grande è relativo al fatto che il governo possa esercitare la Golden Power. Come dicevamo, è stato rinviato a giovedì. Esatto. Ma il ministro Calenda ha detto che secondo lui ci sono le condizioni, poi vedremo cosa deciderà il comitato. Guarda caso il comitato è stato rinviato a giovedì, che è il giorno successivo anche all'incontro bilaterale, certo, Francia-Italia, quindi probabilmente sarà anche una posizione, una decisione politica. Vediamo cosa verrà fuori innanzitutto dal vertice Francia-Italia, che coinvolge in primis Fincantieri, ma probabilmente anche Telecom, e poi comunque giovedì si esprimerà il comitato dicendo se ci sono gli estremi perché il governo eserciti la Golden Power. Ovviamente i titoli a questo punto sono in una situazione di stallo, manca l'amministratore delegato, non si sa bene quali siano le posizioni del governo, e last but not least infine c'è anche la posizione della Consob, che di recente ha indicato che Vivendi esercita un potere di fatto su Telecom Italia. La società ha detto di non essere d'accordo su questa versione, dunque si rivolgerà in tutte le sedi legali appropriate, però c'è anche ovviamente questa questione abbastanza spinosa. Andiamo poi sui migliori e peggiori della seduta anche oggi. Visibile Editore più 30%, TPS più 8,70%, Gefran più 5,60%, Classe Editori più 5,20%. Il fronte opposto vede invece Fope meno 11%, WM Capital meno 5%, KR Energy meno 4,70%, Carraro meno 4,5%. Grazie. Tra l'altro qualcuno mi chiede di Leonardo, ex Finmeccanica. Qui, Leonora, ci sono le dichiarazioni 1,5% del ministro delegato Alessandro Profumo, che ha detto oggi è un core business molto chiaro, puntiamo a crescere, far crescere i ricavi sopra l'obiettivo che ci eravamo già dati. Grazie intanto a Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore. E adesso spostiamoci su altri due temi. Uno riguarda indirettamente, cioè, abbiamo detto il filo conduttore potrebbe essere il consolidamento a livello europeo di grandi gruppi. Domani c'è l'appuntamento attesissimo tra Francia e Italia, come ricordava Eleonora Micheli, per parlare di Fincantieri e Steex, del polo europeo civile e difesa, senza far troppi danni, aggiungo io, a Leonardo Finmeccanica, cioè senza che diventi una concorrenza italo-francese a un gruppo italiano. Oggi però stiamo commentando un altro tipo di accordo che franco-tedesco, che permetterà la creazione del colosso del numero due al mondo, non nel trasporto in senso stretto, ma nella produzione di materiale rotabile. Perché? Perché riguarda due colossi che si chiamano Alstom, la francese Alstom, e la tedesca Siemens. Sì, perché i due sarebbero, o le due società sarebbero pronte a chiudere l'accordo di fusione delle loro divisioni ferroviarie, che vuol dire appunto la produzione di materiale rotabile, come si dice in gergo. Alstom ha nella parte attività ferroviaria 32.000 lavoratori e un fatturato di 7,3 miliardi di euro, Siemens 27.000 lavoratori e 7,8 miliardi di euro, sono abbastanza vicine come fatturato e anche in parte come dipendenti. Alstom produce i treni ad alta velocità TGV a Gevè, produce anche Italo, nel senso che il pendolino Evo andrà a potenziare da dicembre la flotta di NTV Italia, ma le carrozze di Italo sono Alstom, le produce a Savigliano in provincia di Cuneo, e produce anche il pendolino non è un'alta velocità, ma insomma per una velocità superiore nelle linee ferroviarie britanniche. Nascerebbe quindi il gigante nel settore della produzione dei trasporti ferroviari in Europa, il secondo al mondo con un volume di ricavi di 16 miliardi e contro il colosso cinese, penso a CRRC, principale costruttore al mondo di veicoli ferroviari, che fattura circa 30 miliardi, farà saltare i piani di Bombardier, che da mesi cercava di chiudere un accordo con i tedeschi. Non è contento l'amministratore legato alle Ferrovie dello Stato Mazzoncini, perché dice: siccome noi siamo clienti, cioè, o meglio, loro sono nostri fornitori, la riduzione del numero dei competitor è sempre negativa, non è una notizia così buona, cioè, se hai pochi soggetti è chiaro che tratti di meno quando vai in fase di gara. Marco Morino del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24, il Sole 24 Ore. Oh, allora Marco, senti, la prima cosa che balza agli occhi è il tipo di accordo, perché il governo francese controlla il 20% di Alstom e ha un'opzione per acquistare un altro 20% da Bouygues, che ne ha il 28%. Ma al di là di quello che fa il governo francese, se ho ben capito, Siemens controllerebbe poco più del 50%, ma la sede sarebbe in Francia e il titolo sarebbe quotato a Parigi e avrebbe un amministratore delegato francese. Ah, così balza agli occhi, giusto per essere un po' polemici, la differenza nel trattamento con un'operazione già chiusa, già accordata da Hollande, mi riferisco a Fincantieri e Steex, e poi fatta saltare da Macron. Certo, hai perfettamente ragione, però possiamo dire che questo cambio di rotta, in qualche modo a sorpresa di Macron, che adesso si è convinto a creare dei campioni europei dell'industria, potrebbe indirettamente favorire anche l'operazione Fincantieri, perché se la Francia acconsente alle nozze ferroviarie tra un campione nazionale come Alstom e un concorrente come Siemens, creando di fatto poi una società paritetica 50-50 e quindi diciamo non esercitando appunto il controllo su questa società, questo potrebbe voler dire che anche Fincantieri avrebbe la strada meno ripida per arrivare ad avere il famoso 51% di STX. Perché questo? Perché finalmente Macron, o forse i suoi consiglieri, comprende che senza campioni europei l'industria europea farà molta fatica in futuro a conservare i primati industriali di cui vante, di cui disponete, di cui va fiera giustamente, ma purtroppo oggi nel mondo globale le dimensioni contano e contano parecchio e ti devi scontrare con dei giganti, e parliamo soprattutto di giganti asiatici, che corrono alla velocità della luce e dunque se non hai delle dimensioni adeguate tu non riesci a stare dietro a questi concorrenti, perché dimensioni adeguate vuol dire mettere insieme l'attività, fare insieme ricerca e sviluppo, fare insieme investimenti e riuscire a tirar fuori dei prodotti che riescano effettivamente a tenere la concorrenza degli asiatici. Facciamo un esempio dei treni che colpisce molto, sì, credo, la fantasia. Marco, facciamolo, ti chiedo un minuto di pazienza, facciamolo dopo il traffico, così capiamo ancora meglio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora Marco Morino, facci l'esempio del perché anche Macron è stato convinto, si è convinto che i campioni europei servano, visto che tu hai chiarito che questo potrebbe aiutare poi domani l'incontro Italia-Francia sulla vicenda Fincantieri e Stelz. Perché lì si creerebbe un altro campione europeo nel settore della cantieristica navale, anche quello un altro settore strategico. Allora, il mercato, il panorama mondiale dei treni, l'industria ferroviaria non è come l'industria dell'auto, non ci sono decine di produttori, ce ne sono 4-5, solo poche aziende nel mondo costruiscono ad esempio i treni ad alta velocità, i treni da 250 a 300 e più chilometri orari, sono sostanzialmente 4, anzi 5 le imprese, Alstom, Francia, l'abbiamo detto, Siemens, Germania, l'abbiamo nominata, Bombardier, Canada è la terza, poi c'è il colosso giapponese Hitachi, che certo, in Italia ha comprato ex Ansaldo Breda, ha degli impianti a Pistoia, a Reggio Calabria, a Napoli, e infine, ultima ma non ultima, CRRC, è un acronimo che sta per China Railway Stock Corporation ed è in assoluto in questo momento la più grande compagnia ferroviaria del mondo. Allora la Cina ha puntato in maniera proprio quasi selvaggia sullo sviluppo dell'alta velocità, ha investito tantissimi soldi, questa società è di proprietà dello Stato cinese, è cinese, quindi proprietà statale cinese, sì, e costruisce treni. Attenzione, CRRC ha dichiarato 3-4 mesi fa, notizia che ha fatto il giro di tutti i blog e gli appassionati di treni del mondo, di voler costruire il treno più veloce in assoluto, sì, del, sì, pianeta. Treno, un nuovo tipo di treno a levitazione magnetica in grado di raggiungere una velocità massima di 600 km orari. Lo scorso anno un treno giapponese a levitazione magnetica ha sfiorato i 590, battendo il record precedente. Dunque i cinesi addirittura si prefiggono di superare perfino i giapponesi. Ora, se questi sono i competitor a livello mondiale, è naturale che le alleanze devono diventare quasi, non dico spontanee, ma è chiaro, è chiaro, e quindi io posso capire il punto di vista dei mazzoncini, però già sono pochissimi i compratori, se devo, i nostri Frecce Rosse sono prodotti da, infatti, da Ansaldo Breda, gruppo Hitachi, già sono pochi, magari questo però permetterà, io dico da italiano, di comprare materiale italiano o comunque europeo e non andare sui cinesi. Grazie intanto a Marco Morino, ma è importante quanto ci hai raccontato sull'effetto indiretto che potrebbe avere domani sull'altro, sull'incontro tra Macron e Gentiloni, perché se hai fatto così per, o vuoi fare così per Siemens ed Alstom, beh, insomma, la stessa logica la puoi seguire anche per Fincantieri e STX. In chiusura cerchiamo di capire, visto che è appena arrivato un flash d'agenzia sul referendum nel Kurdistan che sta molto muovendo anche il prezzo del petrolio, 93% dei votanti a favore dell'indipendenza del Kurdistan iracheno, che cosa potrebbe capitare anche e soprattutto sui prezzi del greggio? E lo facciamo con chi è reduce, nel senso corretto del termine, dal Kurdistan, e quindi Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Allora, hanno votato, come ampiamente previsto, 93% a favore, ma adesso che capita? Perché ho visto che l'Iraq, insomma, non ci sta, e nel frattempo il prezzo del petrolio si muove anche, diciamo, sulla produzione del Kurdistan iracheno, che è pari a 550.000 barili al giorno, cioè l'equivalente di quanta è la quota che l'OPEC praticamente ha tagliato in questi mesi. Prego, Roberto. Sì, è detto io, ma anche di più, teniamo presente. Poi si tratta di esportazione. Il problema è che tutto risale a una disputa petrolifera che è interessante ma richiede un po' di tempo. No, abbiamo due minuti, quindi esatto, devi quindi solo dirmi cosa succede adesso. Esatto. Cosa succede? Allora, il Kurdistan è un paese senza sbocchi sul mare, può esportare il suo petrolio dal Kurdistan regionale, dalla Federazione Autonoma e dalle zone contese che ha occupato per difendere dall'ISIS, Kirkuk nella fattispecie, solo attraverso un oleodotto, la Kirkuk Ceyhan, che va in Turchia. Erdogan, che vedeva come il fumo negli occhi l'indipendenza, il referendum sull'indipendenza, perché temeva una reazione analoga dei curdi che vivono in Turchia, ha minacciato di chiudere questo oleodotto. Quindi significa che nel caso lo facesse veramente, io non lo ritengo così probabile, verrebbero a mancare 600.000 barili al giorno subito così, di petrolio tra l'altro di ottima qualità. Ma non solo. Questo referendum ha la capacità di avere l'effetto come un terremoto geopolitico nel Medio Oriente, per cui i mercati temono anche che possano venire destabilizzati nel caso peggiore che ci fossero degli scontri anche altri giacimenti iracheni. Insomma, la situazione non è facile. E da lì una parte delle tensioni, grazie Roberto per la sintesi, una parte delle tensioni che abbiamo visto sfogarsi tra virgolette sul prezzo del petrolio, visto che proprio in apertura ricordavamo come il Brent fosse ai massimi da due anni a questa parte, dal luglio del 2015, intorno a quota $59. Non è l'unica cosa, c'è anche l'aumento dopo 10 anni da domanda di petrolio e l'accordo quasi accordo Russia-OPEC per la riduzione delle quote. Grazie anche Roberto Bongiorni, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.